America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Passaggio del Don Giovanni, perché? Beh, perché è diretto dal maestro Fabio Luisi, che ha sostituito il grande James Levine al Metropolitan, e lo abbiamo qui con noi, uno dei più grandi direttori d'orchestra italiani in questo momento, ai nostri studi. Buongiorno maestro. Buongiorno. Beh, complimenti. Devo chiederle come ci si sente alla guida del Metropolitan. L'emozione è assumersi delle responsabilità che naturalmente come principal contatto sono maggiori di quelle che avevo come principal guest conductor, perché si viene, almeno io vengo coinvolto in discussioni più ampie, in discussioni che comprendono anche le stagioni prossime. C'è molta più responsabilità e vedo anche per l'orchestra, per il coro, per le maestranze artistiche, vengono a chiedermi opinioni, pareri, aiuti, e questo significa che questa posizione ha una proiezione diversa da quella precedente. Il mio apporto è un apporto di mantenere soprattutto le maestranze musicali al livello al quale sono arrivate negli ultimi anni, che è un livello altissimo. Stiamo parlando dell'istituzione musicale più importante e migliore degli Stati Uniti, è una delle più importanti del mondo, dando nuove idee, nuovi impulsi, sia per quello che può riguardare il repertorio che per quello che può riguardare il modo di proporre questo repertorio, che forse col mio apporto potrà essere un poco modernizzato. Per esempio? Stiamo lavorando adesso al Siegfried. Io sto cercando di togliere il pathos da questo Siegfried, che è un pathos un po', secondo la mia opinione, un po' démodé, un po' old fashioned, di renderlo un pezzo teatrale con musica. Maestro Luisi, Wagner, Siegfried, beh, ci sono un po' di luci e ombre su Wagner, un enigma, il seme dell'antisemitismo, il superuomo. Ecco, secondo lei come si può creare un ponte tra questa musica e anche un po' questo messaggio, e un messaggio moderno? Ci sono aspetti anche in questo Siegfried, come in tutte le opere di Wagner, oggi difficilmente accettabili, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista stilistico. E soprattutto noi, col senno di poi, vediamo il seme di qualcosa che ha portato a grandi catastrofi nel secolo scorso. Secondo me dobbiamo cercare di liberarci da questo senno di poi e di vederne invece gli impulsi positivi, che sono un inno alla gioventù, un inno al non sapere, un inno a una formazione che inizia da una tabula rasa, che è un concetto molto interessante, che è un concetto volteriano, non è soltanto un concetto pangermanico. E questo può essere l'idea, può essere il modo di affrontare Wagner oggi. Maestro, Live in HD, una delle iniziative del Metropolitan per portare la musica live nei cinema intorno al mondo, centinaia di cinema. Ecco, il 2 novembre ci sarà una sua performance in Italia. Sarà il Don Giovanni. Ecco, ci parli di questo Don Giovanni. Com'è il Don Giovanni? Il Don Giovanni è una delle opere più perfette che siano mai state scritte, sia dal punto di vista della musica che del libretto. Abbiamo due geni straordinari come Mozart e Da Ponte che si sono messi a fare questo Don Giovanni, e il risultato è eccezionale. È un'opera dove c'è tutto, e per me il capolavoro è l'opera in cui si ricrea un microcosmo particolare, cioè uno specchio dell'esistenza, uno specchio del mondo. con una musica che non è un soundtrack, non è un'illustrazione, ma è una spiegazione particolare di quello che avviene sulla scena, di quello che viene descritto dal testo. Ecco, e se pensiamo al complesso dell'opera, come pensa che possa esserci in questa nostra epoca, in cui tutto avviene molto rapidamente, un'attualizzazione? È vero, ci sono ritmi, testi, anche un modo di far musica che spesso non appartiene più al nostro tempo. Ed è per questo che l'opera è in pericolo. Il nostro compito è di rendere l'opera accessibile al pubblico di oggi, spiegando che quello che stiamo facendo è interessante, è bello, è unico, non è ripetibile e può portare delle emozioni che nessun'altra esperienza nella vita può apportare. L'emozione di vedere un'orchestra di 100-120 elementi suonare insieme sotto la direzione di un maestro oppure con un solista è un'emozione che non si può avere ascoltando un CD o guardando la televisione. È un'emozione che bisogna sperimentare su se stessi, è un'emozione anche fisica, e questo è un'opera di convincimento che dobbiamo fare noi tutti. Vorrei parlare dell'Italia. Purtroppo in Italia la cultura musicale è un po' abbandonata a se stessa, è d'accordo? La cultura non paga, nel senso che non produce mezzi finanziari, ma esige mezzi finanziari. In Italia non c'è stato un'educazione allo sponsor, è anche molto difficile in Italia perché non ci sono agevolazioni fiscali per gli sponsor, e lo Stato si sta ritirando poco per volta da tutte le attività culturali. Le strutture che ci sono strutture antiquate, su questo non ci piove, sono strutture che vanno rinnovate, per le quali occorre cominciare a discutere seriamente con tutte le parti interessate, perché le ramificazioni sono in tutti gli strati della società e naturalmente bisogna parlare e mettersi d'accordo con le parti in causa, con tutte, e questo non viene compreso e quindi non quindi è stato c'è anche fatto. Un problema sindacale, vuol dire? Ma certo, c'è un problema sindacale, c'è un problema di strutture. Siamo indietro dal punto di vista sindacale? Siamo indietro da tutti i punti di vista, siamo indietro dal punto di vista manageriale, siamo indietro dal punto di vista gestionale, siamo indietro dal punto di vista anche sindacale. Non c'è parte che non abbia una parte di responsabilità in questa situazione, ma nonostante questo è necessario parlare con tutti, parlare con le orchestre, parlare con i cori, parlare con le maestranze tecniche e anche cercare un modo di gestione e un modo di finanziamento da parte dello Stato che non deve mancare, perché è importante, in modo da poter riformare la situazione musicale. In Italia non è conosciutissimo a livello popolare, non è un divo, diciamo così, credo che o sbaglio? No, non lo sono e sono contento di non esserlo, per carità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Miranda Lambert, cantante country originaria del Texas, ha pronto un nuovo disco, il quarto, dal titolo For The Record. Sarà nei negozi dal 1 novembre. In anteprima su America 24 di Miranda Lambert, Mama's Broken Heart. Go away. Fix your makeup well, yeah, it's just a breakup run. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.